si deve recuperare tutto il tempo perso d'ora. E beh, è fatto un anno a casa. E vabbè, che sono le 8 e 12. E vabbè, comunque. Già eri a casa, adesso devi andare. E dai, che già ce la fai. Sì, sì, come si ti sente? Già ti sento. Aspetta, ho cambiato il radio. E così, differentaci. Vabbè, quello il baracchino omologato, volume BP5, questo è quella grande, no, questo è il K, stai tempo, quello grande, questo è 440, quello è l'Alan 48, figurati, se lo sapevo quello là già te l'avrei fatto, cazzo era un affare, era, nuovo nuovo, due citti, ciao, ciao, oggi, a più tardi se coincide, ciao. Anche su 23 adesso parli, traditore. Traditore, traditore. Ah, perché era 23? Ma tu c'hai orecchie dappertutto. E via, come mai hanno preso il 23? E non il 20? Ha detto che era più pulito Graziano. Infatti loro se non me la futtesse a me. Io c'ho sempre da tutte le parti, se tu che non ci sei, ti ho detto traditore nel canale 1, invece non mi hai risposto. Ma uno, no, non ce l'ho adesso, avevo un momento quel portatile nero, con l'analogico digitale, e quello non ce l'ha l'LPD, capito? Ah, ho capito, ho capito. Sono sempre io giro tutto, ascolto, faccio. Ho parlato con Eugenio poco fa qua, canale 10. C'avevo l'Alan 48, stavo ascoltando, poi ho visto l'abbattimento a zero. Ho detto, bah, ci deve essere l'uomo lupo in circolazione. Ho girato, era su 23. Allora ho commutato questa, che manco lo sento. Eia, ah sì sì, sono un po' diverso il 23. Eia. Sì, questo c'è normale i canali PMR, però le LPD non ce l'ha. Dovrei mettere Y, no? E dopo lo metto infatti. Dopo lo metto. Sono ancora in disabile, pigiama, sandali. Per carità, è come vivere metà della vita, la mattina e il pomeriggio non esistono, eppure mattina si può uscire, tirarsi un caffè fuori, insomma, vedere la vita, vedere la gente che passa, così, e invece è sempre troppo tardi, dobbiamo cambiare questo sistema di vita, però non va bene, è troppo alterato, troppo. Questa è una tua scelta, no, stamattina avevamo il radio, io, Antonino e Giulio, poi io sono uscito verso mezzogiorno e sono entrato che la luna è qualcosa, e stamattina avevo anche il radio, capito miei, e poi io sono uscito molto, una bella giornata, e quindi sono per farmi in giretto. Hai fatto bene, hai fatto molto bene. Adesso vediamo se per Natale riusciamo a mettere in moto questa moto. Cercherò di conservare qualcosa anch'io, pigliare la batteria, pagare la revisione, insomma, vediamo. E se non, pazienza, si vede che era destino, che non dovessi, proprio tenerla questa moto. Se riesci invece di tanto di comprarti quelle cose che ti compri, che poco ti servono, capito? Anzi annunca di genere, quelle 70 euro avresti buttate sulla moto invece di buttarle su quelle stronzate. Sì, ecco, quello è vero, però non le considero stronzate, dai. D'ora in poi potrei conservare roba, insomma, fino a gennaio, no? Perché poi si blocca tutto, sud in ferie, eccetera, e vedere se, se ne esce qualcosa. Ok, ok. Mi era sembrato di sentire anche a me a Cicchirri Cosomi da lontano, ma poi non ci avevo fatto caso, spazzolando. Coso, va. Ehi, già hai capito? Io mi dico sono tratte per modo di dire, perché, insomma, non sono molto utili visto che già ne hai, no? Perché se non ti potevi metterli sulla moto, anche perché le tratte la moto serve. Ma tranquillo, io ci ho provato mille volte a disfarmene e tutti gli anni ero sempre in crisi. Alla fine me la sono comprata e non ne vendo più. Mi serve lì il culo, tanto. Rimane lì e basta. Quando mi serve metto in moto e esco. Capito? Fare commissioni è troppo utile. Troppo. No, vabbè, dove che devi andare a ballare stasera? A ballare dal freddo. Sì, ho sentito Eugenio prima, a me non mi sembrava lui che stava chiamando a voci, ma era proprio passo, passo, passo. Sì, è lavoro, è lavoro. No, io lo sentivo bene, anche con la 48, poi ripeto, ho visto battimento zero, e allora ho subito commutato questa che non si sente la mosca. Giusto per usarlo, per non tenerlo dentro l'armadio, ma se non c'è nessuno vicino va bene, ma si modula l'uomo lupo, con 48 non si può trasmettere, Galaxy non manco, non apprende i colpi, niente, zero, malissimo, proprio si spegne. Perché il Galaxy ha questa scheda qua, dovrebbe avere. Io per esempio, no? Avevo il multimode 3, che era una cosa allucinante, sentivo battimento zero da gente vicina, sentivo la voce sugli altri, era allucinante. Poi come sono passato all'Excalibur Samurai, che ha la EPT 3006, c'è stato un abisso, molto meno battimento, per non dire quasi nulla. C'era una notevole differenza tra la multimode 3 e l'Excalibur Samurai, no? Che poi sarebbe come il Pluto, è come quello il Jopix 2000 che ho adesso, il Super Jopix che ha le cifre verdi, uguale, e poi è quello che ha Franco. E c'era un abisso, proprio l'altro pigliava battimento, mi si abbassavano i segnali, era una cosa allucinante, era come un omologato, mi. Vedi la differenza tra apparato e apparato, filtri, non lo so cosa sia, conversioni, boh. È un apparato di cacca, ecco cos'è. Sì, è un baracchino da macchina, cos'è apparato, non c'è medio apparato, c'è un soffende. È proprio un baracchino da macchina, non fa, però io ce l'ho omologato, ogni tanto lo accendo, usarlo, farlo andare, poi magari adesso fra una settimana lo stacco, e se lo chiudo dovrebbe per armati, però non si può usare a casa, soprattutto quando c'è gente vicino così, capito? No, Galaxy non sento nulla, la canale di accente, ma da 10 a 20, 10 canali non sento nessuno, manco un po' triste, niente, capito? Non sento niente, invece mi sciuga, si sente cosa, grazie a sciuga di tu, quindi lo spento, uso questo, e metta da lì. Complecco. Registrato, avanti, buonasera. Buonasera. Quindi domani mattina cosa fai? Caffè paghi? O lo pago io? Nulla vorrà pagare, però o prima delle 9 o dopo le 9 sul tardi, capito? Perché prima sistema Filippo. Guarda, io 9:30, 10:20 accompagno a mia moglie in chiesa con mia figlia, quindi anche per le 10:15, le 10 va bene. Ah, allora ultimo, ma ci vediamo per le 10, va bene, ci mettiamo già d'accordo così, per le 10 va bene lì, perché dopo Filippo domani si è andato da Eva, no? grosso, quindi lo porto verso le 9, 9:10, verso quell'ora lì, e poi scendo. Va bene, buonasera e ben ascoltato. Scappa, buonasera. Da lì tu a Vienna per il caffè. Già vengo. Marco, tu a Vienna per il caffè. Io a quell'ora mi sto coricando. Tu sei un crumino, un briaccone fragico se non vieni. Tu vasi la vita da remita, grazie, bro. Eh beh, pipistrello, no, la notte sveglio. Ratapignara era azzeccato, anzi Claudio non l'ha più citato quel nome. Ehi, vabbè, sempre Ratapignara sì, Non è che... Oh, ma io manco ne ho detto un giorno, se ti ricordi Marco, io che tale sì. E ti ho chiamato verso mezzogiorno e mezza. Ho chiamato Massimiliano verso mezzogiorno e mezza. E poi sei vicino a Marco in giro. Mi tocca vicino in zona, là. Che già non abitiamo più di strada e se viene a prendersi una cosa. Devo raggiungere. E ti ho chiamato. Scusavo al telefono, poco ha risposto. E tu di buon mattina. E tu di buon mattina. Dici tu mica mezzogiorno e mezzo mi. Ma fa una vita... Non la so descrivere neanche io. La vita alla pipistrello. Lo so. Vabbè, però no, non riesco. Dovrei dormire, fare, spostare. Io ho il fuso orario di New York praticamente, capito? Sono 5 o 6 ore indietro. E va bene, pazienza, dai. Vuol dire destino. No, a me mi pare che tu hai problemi seri, no, fuso orario New York. Non fuso orario, no, fuso proprio. Per quello che ho detto, va bene. Rimani collegato, non c'è problema. Va bene, avanti qua. Io non ci vediamo, è questione di abitudine. Io quando stavo lavorando nel primo vestito mi ero abituato a mangiare molto tardi, perché rientravo a casa alle 4, 4 e mezza e pranzavo a quell'ora. Il primo periodo mi dava un po' fastidio, non avevo mai fame, poi mi sono abituato e pranzavo a quell'ora, cosa devo fare? Capito? Infatti la sera a cena si cenava dopo 4 ore e mezza, 8 e mezza, quell'ora lì, non mangiavo quasi niente. È questione di abitudine, se uno si abitua non c'è niente da fare. Avanti Natali. Non c'è problema, uno e mezzo a pagare il caffè. E non gravi a mio fatto bagaetto, che ha preso la pensione. Ah, così è. Allora, poi non ne ha più, non paga più niente. E allora fateli dare, scendelo scendendo. Vai. Ecco. Ehi, ah sì, ti ho detto Massimiliano. Posso prenderti così ho pari il tuo caffè? Sono in bolletta. Gli ultimi soldi li ho spesi per comprarmi quella radio. Che è una scena, sì. Una scena, sì. Non ti dura lunga la pensione a te. Guarda, se io lavorassi sarebbe una cosa tragica. Mi sputtanerei tutti i soldi in giro di 2-3 giorni. Senza scherzi, Minchia, no. Guarda, io quando ho sempre lavorato, perché lo dimostrano i fatti, però quando io non ero fidanzato, diciamo, c'avevo la ragazza, eccetera, io quando prendevo lo stipendio, sto parlando di soldi, perché guardandomi alcune buste paghe che ho trovato del 1990, anzi 89, prendevo 700.000 lire al mese, esattamente 658.000 lire erano soldi, e mi facevo dare qualcosa alla mia madre, il resto lo avevo tutto a mia madre a conservarmelo, capito? No, io come avevo spendevo, tanto io non ho progetti né ragazza né tantomeno voglio moglie, figli, capito? È una specie di gabbia per me quella, è come essere in catene, così non ho responsabilità, capito? E mi posso sputtanare il fuoco che ho vissuto io. Anche lì sono scelte della vita, io non mi sono mai sentito in gabbia, né quando ero fidanzato né da quando mi sono sposato, mai mi sono sentito in gabbia, anzi ho sempre fatto più di quello che facevo prima. Vai Natali, tu in gabbia ti senti? Come? se ti senti in gabbia. Svegliati in gabbia, sì. No, io in gabbia per il momento c'è l'uccello, basta, il canarino, e basta, il resto già sto fuori, va. Va bene, va bene, dai ragazzi che io sto uscendo, va. Ci sentiamo dopo se coincide, devo salire un attimo una salsa e poi riscende. Va bene, ci vediamo alle 10 per il caffè, Natali, portati spiccioli arrotolati perché io ho 1,50€, quindi un caffè esce, ci sono gli avvisendi. E come faccio a arrotolargli gli spiccioli? Piacegli anche Claudio qualcosa arrotolato, va? Sì, il bambino però. E gli spiccioli, gli spiccioli. Gli spiccioli già. Non spiccioli. Lui è un figlio, sono spiccioli. Ci teniamo così. Gli spiccioli già finendo. Va bene, lasciami dai. Vai a fare questa commissione, noi siamo qua. Proprio qua è uno straccio di partita. Alle 6 c'è il derby Roma Lazio. Adesso me ne mando un po' qua, dai, tu magari diamo un'occhiata. Vai Marco. Ho letto su che partita era quella di ieri, ma cos'erano? Qualificazioni mondiali? Italia-Svezia o una cosa del genere, 1-0. Sì, la Svezia e Italia veramente. E sono convintissimo, sono, giocano il ritorno lunedì a San Siro, mi sembra che giochino. Sono convinto che la Svezia all'Italia l'elimineggia, senza ombra di dubbio. Non è squadra da mondiale, no, dici? Ma l'Italia, ovvio. Stavamo parlando stamattina con il Natalino e Giulio, lui. C'è più attaccanti di una volta, Marco, sono tutti stranieri, gli attaccanti ci sono adesso nella Serie A, ancora non sono pronti ad affrontare la nazionale. Ci mette a fare con tutto che c'erano i vecchi della nazionale in difesa, però attacco non ce n'è, sono finiti i tempi del Piero, di Totti, di tutti gli altri, sono finiti, capito? Non ce n'è, l'Italia non andrà nessun luogo, non va nessuna parte, vai Natali. Ia, vabbè Massimiliano, ci sentiamo dopo al limite. Allora ci vediamo domani, dai. Adesso cerco di arrotolare tutti quegli spiccioli. E io domani mattina. Io ci sto buttando prima poi scendo, ma poi quasi tutte le domeniche scendiamo, è nata lì. Perlomeno io scendevo quasi tutte le domeniche quando non ero a lavoro. Adesso al lavoro ci vanno gli altri, quindi già mi posso spostare. Gappa gappa. Bene mela, bene mela. E quindi è così, caro Marco. È un casino. Vabbè. Dunque sì, io quando ero fidanzato mi sentivo in gabbia, era un incubo, abitava di fronte, dovevo stare sempre con lei mattina, pomeriggio e sera. Poi sempre mi portava a casa a seguire i genitori, al mare con i genitori, in campagna con i genitori. No, non esiste. Capito? Il fidanzato in casa, per carità. Mi sentivo in gabbia davvero, eh? No, che male i genitori. Come andava giù la io? Andavo la giù la io a ciuppare così con i genitori. No, già ciuppavamo anche quello, sì, però. Se io sto con una, non mi interessa stare, andare a mangiare da genitori, non mi piacciono queste cose, capito? Quando comincia così mi sento davvero in gabbia. E poi cominciamo a parlare di roba di matrimonio, se vogliamo costruire qualcosa assieme, io come ho sentito così mi si è gelato il sangue. Mamma, passa via! Uscia via, lì io sei pronto. Se no non si possono fare certi passi, no? Devi essere pronto, ma veramente. Non mi sono sposato, c'avevo già la casa pronta, anche con le tende e i quadri appesi. Però erano altri tempi, Marco, erano altri tempi. 700.000 lire al mese. Aspetta, buono, buono. Bene, vai Natali. E lui era un bel idea. Ricordo quando l'ho comprato qua, però non ho piano, allora sono al secondo. Dal secondo c'era mia suocera, era il nono, mio cognato era il quinto, mi sembra, erano tutti qua. L'ho comprato qua io, la cooperativa, sono stato uno dei primi a dare l'acconto, dove inizio lavori. Ho fatto 15 milioni subito, capito? Erano tanti soldi, però si guadagnava. Allora, per il contesto, allora puoi dire, beh, lavoro ce l'ho, la casa ce l'ho, c'ho tutto, mi sposo, ma qui vatti andrà a finire Guidi, come vedo tantissima gente, cazzo, per carità. E tranquilli se lì come Guidi, perché dopo 3 anni eravamo sposati, nata mia figlia, quindi devi fare cose con la testa, sennò. Siamo di Scebite, ho visto un programma l'altro giorno, ci sciocca, mamma mia, hai visto Marco quello di Forum, di quell'iraniano? No, non ne guardo io. Anche l'iraniano, quindi è tutto, quindi ci sciocca. È venuto in Italia, iraniano, indiano, dall'India, c'è ragazzi indiani, sono bellissimi, ecco la figlia, il figlio. A lavorare qui e là in un'azienda e il figlio del padrone non si è aggiullato la figlia, lascia glielo dire, per una ragazza del genere che è morta, non può tornare più in India nessuna parte, perché per loro la verginità è una cosa allucinante, stava chiedendo 1 milione di euro di risarcimento. E lì quello gli avrà mandato 1 milione di vaffangala. Ho detto che se si toglieva a sedere i soldi, capito? Che era consenziente la figlia. Ma tu dovevi vedere questo disperato. Non è possibile, così, non parlavo anche italiano. Non è possibile, consenziente. Sì, sì. Se le piace la banana, lo dice a te tua figlia proprio. Nel loro paese, per carità, padre e padrone mi fanno quelli là, sono dei retrogradi allucinanti, qua in Italia ancora, vedi, è quella per cui quando viene in Italia, yuhu, banane a go-go. Insomma, ero disperato, poveraccio, poi mi sono distratto, mi sembra che sono uscito, dovevo andare a fare la spesa e non so chi ha vinto, non lo so. Che cosa ha deciso il giudice? Mamma mia, quanto era disipirato che... vabbè. No, ma lì a furo io sapevo che lo guardo, perché sono cose allucinanti. Uno stesso da poco, mi pare che era neanche 4 mesi sposato. Neanche 4 mesi sposato. Già stava chiedendo risarcimento alla moglie, perché qui, perché là. Cazzo, ma cosa di cui lei già fa? Per carità di Dio, vai Natali. Guarda, molti matrimoni nascono male, però nascono male, tipo gente che si sposa troppo in fretta o che non si conosce bene, e poi sarebbe la stessa cosa, oppure matrimoni di riparazione, capito, fatti a forza, e quelli non durano. E c'è neanche a pagamento, Marco, c'è neanche a pagamento le grandi. Cioè, dove gira un po' di mafiettas, io ti faccio sposare mia figlia e tu mi dai questo, capite? E ti raccampa. Mamma mia, che schifo, cazzo. Che schifo. Mamma mi ha sempre detto, vai dove va il tuo cuore. A me può andare il capo al mondo, l'importante è che tu sei tranquillo, capito? Così bisogna fare. Bisogna seguire lo sticchio pacchio, vero Natali? Ehi. Noi camagisi, no, lo sticchio pacchio. Oh, c'è gente che segue anche camagisi, Mamma mia, come sto. E beh, già pranzato hai pipistrello. Ovviamente no, ma non manca molto. Mi manca molto, oggi pranzo presto e caspita, per me è molto presto. No, vabbè, bisogna pranzare, no, io bel pranzetto oggi, e ti ho anche portato anche i cannoli siciliani, che il mio cannolo siciliano sono ancora rotti. Buoni, molto buoni. Sì, purtroppo troppo a letto anche la mattina, non va bene. Cioè faccio colazione e mi ricorico. Alle 9 faccio colazione e mi ricorico. Ma domenica mattina mio padre era venuto a Natalino, mi aveva telefonato, io a sparare Marco, io a sparare. Io mi sto girando dall'altra parte. Non c'era andato, no. Non ce la facevo, dai. Signor Marco, sai, ormai si scherza su questo tuo modo di vivere, no? Oh, cazzo fallo, ci hai dato una mossa. Sei a te fare colazione, non te li ti torni a coricare. Vedi, una bella roccetta, te ne esci. Te ne esci. Te ne esci, chiamami. Chiamami che sono... Sto uscendo, dove scendi? Che stai scendi? Dai, sto arrivando. Un chiacchiere, un caffè, c'è Natalino che adesso è anche lui a casa, ci sono io, insomma, se vuoi uscire si esce, non ce n'è problema, io la mattina sono in piedi presto, quindi si esce, anzi, meglio anche per me, così c'è compagnia, però io mi alzo presto e esco, mi faccio un giro, poi torno, mi faccio un altro giro, poi torno, stamattina sono uscito alle 8:30. Poi sono tornato alle 9, ho portato il cane, poi sono tornato uscito e sono entrato alle 10:30, ho acceso la radio e c'era Natalino con Giulio. Ho fatto due chiacchiere, a mezzogiorno sono tornato a uscire, capito? E sono rientrato a l'1. Non puoi stare tutta la lì a casa, Marco. Eia, e spesso anche vari giorni di seguito non si esce. Ho detto, non mi piace più Sassari, sarà che sono cresciuto, prima così si usciva Piazza Castello, c'era la Greffetta, ci si divertiva, ma questo era 20 anni fa, fino a 20 anni fa ormai. E poi a muovere la macchina è sempre un casino. A meno che non vada a piedi al centro, se avessi la moto, vedi, salirei su, scenderei, insomma, con la moto avrei più libertà di movimento, con la macchina un po' meno, ecco perché speravo di metterla a posto, mannaggia, vabbè, ho provato a fare qualche cosa online, qualche preventivo online, ma ti chiedo una marea di roba, un macello era, alla fine mi sono rotto le scatole e non ne ho chiesto, tutto complicato, ti mandano di pagina in pagina, ma vai nella mano, io volevo una cosa in fretta, metti nome, targa, cilindrata è fatta, è più complicato, al diavolo tutti, guarda. No, sì, lo so perché anche mia figlia voleva farlo per l'Alfa, alla fine, ma lascia perdere, ma non mi ha futti 20 euro, 30 euro, 50 euro in più all'anno, ma si abbiglia e luci, abbiamo fatto qua Sassari la vittoria assicurazione, che è abbastanza, una delle meno care, ce n'è meno care ancora, però adesso me a luglio mi pare, no. Non so se aprile, devo controllare. Lui mi scade quella della moto, capito? L'avevo fatta ad aprile. Vedo un po' se devo farla nuovamente qua con la vittoria oppure se andare da qualche altra parte. Perché mi hanno detto che c'erano più basse. Non vediamo. Aspetto, sia che mi ha cattuccia la mania di quella roba lì, io c'è mania delle moto, sto già accendo e tu non me la cambiare prima delle tratte, più volte. Stamattina mi ero da Roma al piazza del segno, vabbè, nulla è entrato, niente, no, per il momento no, fammi sapere, e ti verso la mia e me ne biglio un'altra, biglia luci. Catali! Siamo qua! parla, cosa c'è? Bocca piena, babà si dice maniere. Ma cosa bocca piena? Che è pittina? Cosa parlo sopra te? Un battato con un grilletto, maniere. Ah, ho battato con un grilletto, c'è maniere, diventa. No, sono qua seduto, non è, poi io sono una persona seria, quando modulo non ne faccio di quelle cose. Ah, quanto è Marco, sì. Franco invece, ribiasimi quando mi dovendi mangiare un battato con un grilletto. Ciao Fra. Buonasera, buonasera a tutti. Cosa vuoi fare? Ciao Marco, comunque, ciao Mattarino e ciao anche a te. Ti volevo chiedere una cosa. A Sassari, nelle tue zone, qualche negozio che vende dei tetti di, diciamo, accessori di stufa a pelle che ci sono? Nella mia zona, accessori di stufa a pelle. Ho visto qualcosa, ma non mi ricordo dove. Se è vicino lì a casa di Antonello, tra via Vannabasso e via Carlo Felice. Dove? Dove? Pacca mio gabbo. Comunque ci sono. Perché ti hanno detto nella mia zona? Ecco. No, sono entrato in internet, però è quella zona lì, via Carlo Felice, e poi da qui vicino via Milano, quindi tutto che viene lì. Ma non sarà la ditta Fares? Non c'è scritto Fares, ci sono delle sigle e basta. Perché Fares, diciamo, ricambi per cucine, per elettrodomestici, anche per cose di casa, no? Tutto quello che... Però non lo so se abbia ricambi anche di quelle stufe che hai detto tu a pellet. Però ricambi, boh, meno che non ti debba rivolgere alla ditta che la produce, forse. Eia, la Fares mi pare che sia in via... Mannaggia, non me lo ricordo che via è. Però stufa a pellet è una cosa troppo diversa da cucine, frigoriferi, capito? Una cosa molto diversa. Io non le conosco perché non ho quel tipo di stufe. Boh, Natali, niente sai. No, negativo. Allora, la Fares in via Tempio, che venda roba per le stufe a pellet, non lo so, si può provare via Tempio. Via Milano non ci sono negozi, perché la quattro corsie, ok? Quindi negozi non ce n'è. Via l'Amalfa negozi non ce n'è, ok? Assolutamente. Gli unici negozi che ci possono essere sono in via Carlo Felice, dove c'è l'Enel, hai capito? Comando dei vigili urbani, a partire da Giotto, dal comando dei vigili urbani, a salire, dopo la GBC, sempre a salire, quello è tutto via Carlo Felice. Da una parte ci sono negozi, nei palazzoni nuovi, sotto lì ci sono tutti i negozi, e non lo so se c'è uno che c'ha dei cambi di pellet. E poi alla tua destra, lo stesso salendo, sino ad arrivare alla rotonda Perugino, quindi per girare in via Vannabasso, capito Fra? Questi sono gli unici punti dove puoi controllare se il computer ti dice lì, ma non via Milano e non via La Malfa, perché i negozi non ce n'è. Sì, sì. No, quello di Atenzio lo sapevo, quello lì, no, quello vende solo pezzi di cucina, lavatrici, queste cose qua, e altri tutti gli elettrodomestici, quello lì non c'entra niente, non vendono niente. Va bene, dai, lunedì ci provo, lunedì sera ci provo a passarci con la zona, a vedere se riesco a provarla, se no, vabbè. Andrò dalla ditta che l'ho comprata e me la farò ordinare. Dove l'hai comprata? La Reline? No, ho preso giù la Ricci. Allora dai, poi c'è la Ricci, l'ho detto anch'io, ho girato del detto. Prima vai, non si fa di andare, se scende a porto e se passa la Ricci, fra. Intanto guarda che pezzi di cambio non ne hanno, mi. Li ordinano. Non so che non ne hanno, infatti... Vediamola, a vedere com'è. Il tornello mi si è... Ha iniziato la guerra e si è cozzuto. Senti qua a casa. Ma scende la rete, scendi. Dove lo dico? questi sono qua che ti ricambio, se ce li hanno non sono originali, te lo ordinano, tu vai in città, non della ritti, vi siete via, porto d'ora e fai prima, secondo me, poi io domani mattina mi faccio un giretto, vedo un po', infatti cioè, salgo sempre da lì, capito? Vedo un po', se noto qualcosa ti avviso, te lo dico esattamente, lo vai, ma io non ho mai visto il mio caro Felice, è lì perché poi c'è la traversa del Conti, è lì, negozi non ce n'è, a meno che non c'è qualche cosa, laboratorio di queste cose, lì dove c'è la banca, boh, comunque do un'occhiata io, poi ti faccio sapere, ma così non mi dice niente, fra. Diciamo che io ci sono tutti i giorni, però non coincidono gli orari, capito? Non coincidono gli orari. Per volte che ho uscendo, quando sto uscendo è sempre chiuso. Bene, vabbè. E ci devo scendere a posto. Bene, avanti Marco. Sì, alla fine è la cosa migliore, lo ordineranno. Il bruciatore, così, come si chiama il bacinetto lì? Quello che hai detto tu, ma non mi viene il termine. Il fornello, dove scende il pellet e poi va da fuoco, eh? Sì, è quello lì, dai. Non credo che fosse in metallo, però, addirittura in ghisa il tuo. Sì, il mio è in ghisa. No, ce ne sono di tanti modelli, ce ne so, c'è quello che ce l'ha in metallo, quello che ce l'ha... un casino di modelli di farlo. Infatti, se lo trovo in acciaio, è molto migliore. Sì, cioè ho sbagliato io, anche la ghisa è un metallo. Sì, tipo acciaio, se ce l'hanno. Ma... ghisa fanno anche le padelle, in teoria il calore lo dovrebbero reggere bene, ma... a Puglia non reggono calore, solo che andare con un buon tempo si deteriorano e si crepano, ma tutto si spaccano. Va bene, dai. Puglia, dove va? Avanti, Natalina e Accazia. Natalina c'è da chi non sa, no, si arrivi da ieri a Sarrabia l'improvviso, oppure sta tirando le patate. Avanti Marco. Eia, non so cosa dirvi, dai, come Natalino adesso vi dico, boh, non c'ho niente da dire, dai. Però vedo che qua non... mi sa che me lo scaldo io adesso, se no devo mangiare le 8, non esistono, capito? Siccome la signora si deve guardare, come si chiama, Jerry Scotti, mangia le 8 quando finisce, grazie di auto. Ma pranzare? Ehi! Mamma mia, come sto? C'è ancora di gente che ci piace mangiare all'1:30, noi ci abbiamo mangiato un tratto. Fate quasi le 2. Ci sono ancora 10 rendi e tu ancora devi mangiare. No. Lascia verde. Natali. Sono qua. E cosa ci vedi? Va via, dammi che c'è Franco. Già lo so che c'è Franco. Stavo facendo cosa al computer. Meglio. Come diceva Claudio, o stai in radio o fai altro, eh? O stai in radio o fai altro, una delle due, ma non tutte e due assieme. Lui fa due cose contemporaneamente, e poi no, io quando gioco in radio, gioco in radio, computer è curato, tutto il resto è noia, se pure passare al computer non entro, vi ascolto, capito? Però se no mi comprendo un accidente, manco io, anche perché il computer ce l'ho nell'altra scrivania, quindi devo girare la sedia, no, non vedo, capito, è un casino. Vabbè. E beh, fra, domani è riposo, da notte ti tocca a dormire. No, lei è attivo, a riposo, oggi domani, a riposo. Lei, oggi mi gioca a cazzo, mi gioca a cazzo, mi gioca a cazzo. Ma stamattina? Oh, stasera, stamattina, dalle 8, se mi sto corrigendo. Ah, è vero che hai fatto, si è smontato alle 6. Forse si riesce, tu io no. E la giuria ha detto no, assolutamente negativo. Ma come dorme di giorno, vero ma? Via. Perché te l'ho detto, tutto il ritmo spostato. Una volta andavo a letto a mezzanotte e così entro l'una mi veniva il sonno anche prima. Siamo troppo anormali nel modo di vita. Cosa vuoi ti dica? Non riesco a rientrarci anche perché gli orari alla fine li fa mamma, a meno che non mi metta a cucinare per conto mio, mi cucino in camera qualcosa alle 2 e così si rientra agli orari normali e alle 9 di sera, come cena. Ma se lei che conduce il gioco, se tu che devi cercare di mettere a posto le cose, no? A quest'ora si pranza e a quest'ora si cena, non dico rimaniamo a mezzogiorno, però alle 2 prendiamo, ok, e alle 9 ceniamo, bene va, alle 9 e mezza, ok, va benissimo, ma no, pranzare alle 6 e mezza non ci fa, no, assolutamente, cerca di mettere a posto la situazione, vai va. Lei vabbè, quello è un bel po' di tempo. No, io stamattina quando sono arrivato, sono uscito alle 6, sono venuto a casa, mi sono messo la tuta di ginnastica, il scarpe e mi sono fatto 6 km a piedi, mi sono fatto. E poi arrivato, doccia, barba e a letto. Non c'è grasso quando a smaltire. Devo andare. Obbligatorio. Era di buon mattino, dimmi appena bisogno. Non son ballemi, se io lo telefono, il telefono è spento. Vabbè, vuol dire che è stanco, è per quello. Vabbè, io perché sono lontano, se no sarei stato lì a Sassari, e un'unghiera in giro, gravirei nelle case. Allora, ma te l'immagino. E invece la tali mi tocca fare sotto la marina, andate ritorno. Sì, vabbè, secondo dove stai già non è tanto lontano. Capito, io lì ci sono andato parecchie volte. Sì, da dove sono io sono quasi, diciamo, 4 chilometri e mezzo dovrebbe essere, dove abito io. Però io scendo in macchina fino all'entrata in via Marina, dai, e lascio la macchina lì e sto scendo, faccio 3 km a scendere e 3 km a salire. Infatti. E no, è trucco. Non tanto a fare la casa mia, ma a Sanni. Un po' ghinazzata, bene, sì, Ma che? Ma a Sanni davvero? Allora è per quello che scendo in macchina fino all'entrata di via Marina. E da lì fatto. Però da attendi uno attendi dalla Marina e vedo un pizzo di una vegazzata e quasi bassino, io è da un manco ma a 10-15 minuti. E beh, Marco! Via. Non c'è traccia di cibo, mi tocca aspettare, pazienza. Ma cosa, fatti due fagioli, due cose, ci metti cipolle, ci metti un po' di tutto, ci metti salsicce, e qua, via, e te li fai in padella, così te li fai veloce, non hai 10. Veglia. Adesso chiedo, vediamo cosa ci esce, dai. E comunque davvero è una mezza vita questa che faccio io, perché la mattina è uscire magari quando c'è il sole è la cosa più bella. Io sto facendo la vita proprio del pipistrello, poi adesso fa buio presto, amico, mi alzo io già buio. Ma tu la mattina non costa niente, puoi cominciare quando vuoi. Ti curichi, a che ora ti vuoi coricare? Alle 10, alle 11, alle 11 la notte. Ti curichi la mattina, ti alzi presto, e esci, ti fai un giro, vieni e là, e tutti i giorni, e cominci a farti cose regolarmente. Mangi regolarmente, fai tutto regolarmente. E qual è il problema? Si riesce a farlo, Un po' alla volta, magari. Sì, un po' alla volta. Non è così difficile, no? Invece io la mattina, a volte, non tutti i giorni, però quando vado al lavoro, la mattina passo al mare e mi faccio colazione. Poi arrivo a casa, che sono di mattina, alle 2:30 sto mangiando, alle 2:30. Ma quello è perché sto lavorando, se no a luna io tutti i giorni, io sto pranzando. Poi alle 8 o alle 9 di sera. Eia, beh, la colazione io per esempio alle 9 la faccio a casa. Il problema è che mi ricco, ecco. Si può, tutto si può, Marco. Va bene, lascia. E bene, la mattina dai con gli Claudio, non è a Ruglia, riprende la lì. Ha detto che non è a Ruglia. E a vari quasi tutte cose, a Rugani, e poi lo deve anche portare in giro. Non l'ha detto, però mi sa che lo porta sempre alle 7:30. E verso quello da lì lo porta. Sono malissimo, ci vuole troppa attenzione a tenere un caso, troppa attenzione, pregando uno bella mai a dare l'intenzione, è un casino. E poi è come un figlio, mamma mia questi cani, ti sto dicendo, il cane di mia moglie, adesso mia moglie era ammalata in questi giorni, allora sai che la sera lo dovevo portare io, la mattina già lo porto sempre io, ma la sera lo portava lì, me per non farsi sia ed andare pure a picciare i cani, con un freddo che ti viene aiata. Sì, ti sei sprecato me. Va bene, Natalizio. Allora, è dubbio. Certo, se vai a da quella prima, devo scendere a un grado. Allora, il termone, una usa del mondo, andare via, andare via. Non mettere la giudizio mi sul bordo, in Cina che male che me lo vado. Vale, la russa mi sta attaccando tipo un caramico al pareggio. Ma cosa, ma io è perché mi faceva male la gamba a destra, che c'ho tipo sciatica, deve essere, non lo so. Capito là Marco, non è che io sto dicendo, perché io non è che posso camminare bene. Sì, lo so Nathalie, l'ho detto apposta. Eia, se non mi... un bel catete dal cane con la sacca sotto della pipì e non lo portate più fuori. Sì, però dopo ti fa la cacca in casa se tu non lo porti fuori. Il mio in casa non fa nulla. Aspetta, se mi poni la mimola quando devi cipa a chi devi fare i bisogni sui. No, sono così i cani, sono, è ovvio, tu sono abituati bene. Non se ne fanno a casa, aspettano, sì, stanno lì a gira, ti fanno capire che vogliono uscire, però non ne fanno a casa, però se non lo togli, alla fine è pure obbligato a farlo, e purtroppo sono così, e bisogna, chi accetta i cani bisogna fare anche quello. Il cane è troppo delicato, non è come il gatto che è autonomo, noi abbiamo anche un gatto, femmina, qua. C'ha la sua lettiera e fa tutto lì, capito? Però Lugani no. Anzi, quando era minore Rubasia sopra il giornale Rubasia. A chi l'avevo imparato io e fazia tutto in altro giornale. In terra non ha mai fatto lui. Sì, si è abituato, se lo dici bene non le fa mai in terra, non le può mai fare a terra. Allora che non lo chiudi, quando chiudi una stanza e te ne vai e stai qualche giorno fuori, allora sì che te lo fa lì. Ma se no, il cane io li vedo, ce l'hanno anche i miei cognati, ce l'hanno i cani, e non le fanno a casa. Aspettano che fare i chiami a panna puttana. Eccimi. Mi Claudio è rientrato. Luca. Efra. C'è la macchina che ci ha ammazzato niente, ne ha ammazzato che... Però la porta, ma cercando la buona mangiata. E chi? Cane Natalino? No, Marco. Se vuoi venire in occhi, Marco, ti invito a cena. Con i crocchetti. Eia, con la ciotola. No, con la ciotola mangia il cane, perché ti metto nel piatto. In tempi di guerra mio nonno ha detto a trovarne di mangime per cani e per gatti. Dice che si facevano le bucce di fave, le bucce di patate se le bollivano per mangiarsele nel 43, mamma mia. Trunchi di gaura andavano a seccare un accaddu. Manco quelli trovavi. Ehi vabbè, a che tempi ero ragazzi. Adesso bisogna pensare a oggi. No. Perché non ti ha lasciato niente, non vado io a mangiare. Oh, so che c'è pizza oggi, tutte le surgelate, solo che non so dove l'ha nascosta, adesso glielo chiedo, dai. Oh, comunque c'è freddo qua, io mi sto congelando i piedi, O mi copro oppure cambio stanza. E per il mio pantaloncino io. Ehi, e se no io, vabbè, mi sono 21 gradi, mi sono. Magari poi ce ne sono 12, 11, non so. Tutto chiuso, riscaldamento acceso, si sta da Dio. Non senti quel rumore, ma centrifugenti è mio figlio. Fra poco sai che cosa mi porta. No? Un bel frappè, fresco. Capito? Kiwi, mela, banana, oh yeah. È buono, Io lo faccio col frullatore. Sul frullatore, mele e banane era buono, molto buono, poi se c'è qualche fragola lo stesso è buono. E cosa volevo dire? I gradi, di temperatura, no, hanno annunciato al meteo che ci sarà un brusco calo delle temperature e quindi vogliamo pigliare una bombola, almeno una. Poi già ce la giochiamo tra di noi a chi serve di più la bombola. comincia ad esserci fresco, poi sai, io non sono vestito, sono con le ciabatte, non pantofole, ciabatte, quindi ho il piede scoperto. Ti dico i gradi, quanti gradi ci sono qua? Sono 16 gradi. 16 in Siberia? No. Ma ce n'è quasi 22, 21,8 in questa stanza, che è quella più piccola dove c'è la radio. Negli altri non lo so, però c'è il riscaldamento acceso già dalle 4:30, fino alle 10:30, ma è acceso. KK. E tu, Fra, non sei uscito, non esci? Non esci mai da sabato? No, sì, esco da sabato, però la casina non l'aggiungo, non dà lupo. E sai com'è, Oka? Tutti i giorni ti portano su quel frutta e cose, poi ti fanno vedere la coppa, faccio la barca a terra, le donne, quando stai molto a casa, la casina la buia. Ehi, Parisio, da mai, ma ti ho fatto tutto io così. Sono fatto prima di tutti, sono uscito, sono rientrato, non è ancora più bucati. Tu esci, mi sistemo tutta la cucina, ho fatto tutto, pulito. Non se ne è pesata, era tutto annettato. No, ma io l'ho sempre fatto, Franca, quando ho sempre collaborato, capito? Adesso domani mattina, se no piove, me ne devo fare i vetri di questa stanza, e ho tolto le tendine. A lavare, invece mi lavo prima i vetri e poi rimpiazzo le tendine e me le metto, capito? E basta, e buco, mangio il vasco, poi mi striscio, poi me ne esco di nuovo, capito? Hai? Andiamo bene, andiamo bene. Marco, qua c'ho, guarda, ho guardato adesso il coso della temperatura, c'ho 25 gradi dentro. Beh, da 16 a 25 c'è una differenza già. 9 gradi non sono pochi, ma non è per il pigiama, è che sono con l'infradito, ho freddo ai piedi. O mi metto le calze o le pantofole, tutto lì. Vabbè dai, comunque adesso davvero chiedo un attimino dove l'ha messa, così me lo faccio, dai. Cerco di mangiare adesso, sennò poi non ho voglia di cenare nemmeno. Dai, riprendete voi, ok? Già rientro dopo. Salve imprevisti, tocchiamo ferro. Va bene, aiutate lì. Dove andiamo? Bene, vuoi andare? A fatti due giri. Che ciuda, no? Non viene bene, sto andando con la bila. Senti, il mio casino. E tutti i di basta. Parlando di biglia, vediate ti girare. No, anzi, è aperto il poligono, vanno anche a sparare di notte con le pile, capito? Dove vado io? Perché si allenano i militari, la polizia viene, i carabinieri. No, vanno di notte, a luglio. No, cosa farò? Ma ci saranno i lampioni accesi. No, vanno con queste pile che si mettono sotto all'arma, no? E illuminano con quello i bersagli. Capito? E viene tanta gente lì. Non è capo, sì, ho capito. Sì, li ho visti quelli infimi da giudici, dai, una bila attaccata all'aima. Sì. E così vanno. Capita. Meglio di giorno, è più tranquillo. È meno pericoloso. Sì, non è pericoloso perché tutti stanno attenti, è gente addestrata quella, non è che ci va un pinco pallino qualunque, no? Vabbè, ci sono carabinieri e cose così, beh, ovvio sono già addestrati quelli. Va bene, avanti K. Vabbè, ognuno va, allora gli inviati si aiuto. Ma quelli già sono preparati per fare una cosa del genere, capito? K. Aspetta che commuto, faccio andare un pochino il Galaxy, che è già una guida che non ho tratto. Ho detto a mia strada, e lui quando ero militare, che quando erano imbucati ai parati, erano imbucati, erano a parare a Sassari, e al curriculum militare. Andai che di là, dove ci dico, non vedete, il mio scappere, ma l'ho preso, ma neanche la sala l'ho mai preso. Addirittura, ci ha detto, e allora, ci andava. Mi senti, si fa? Sì, tutta una pattuglia. Tutta una trattoria cosa? Ah, vabbè, beh, certo, vabbè, però il segnale già è buono, sono con 10 watt. Tutta un'altra storia, lo capisco perfettamente, ma no, bisogna trattare pulito, se no si guarda la buia. Vabbè, per tutti bisogna usarle. E con questo se un segnale di 8 modulato a 9, la radio è un pochettino, non è come callata, ma è un pochettino metallica. Vabbè, questi così sono i microfoni, però l'importante è che ci sia la radio, che già funziona, che vada, e già va, KK, 10, 6, 7, non so come anche quanto vi raggio tu goccio. Non lo so, forse a 6, a 7, non lo so. Non lo so. Va bene, avanti Natali. E io non posso alzare nuda, in occhi, gatta. Devi ci fare forza così, ma su vazzo. Ehi, va bene, dai. Però ti fai sentire lo stesso, Natali, ti fai sentire. No, non è metallica, non è metallica. Forse come ce l'avevo basso io il volume, sembrava metallica, invece no, è buona. Sì, Massimiliano me l'ha fatta regolarmi. Massimiliano me l'ha regolata e dice che andava bene, quindi lasciamola stare così, perché non è lontananza, è diverso. Ok, vediamo Marco se ha trovato da mangiucchiare. Oh, pipistrello. No, non ancora, ancora se scendi a mangiucchiare. No, abitano a cavallo, gli è impegnato, se non la c'è a fare lo butto. Ah, uscire, se no si gode tutto, già va bene allora. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, canale 10, avanti, passo. Non passa nessuno, ha detto già tutto passato, Cosa c'è? Ciao, come va? Mamma mia, bassa. Sì, io bacio. Non posso andare a casa di niente, ecco, un bel rimbombante, ti ciao, buonasera. Perlomeno io sto usando il baracchino, il Galaxy, rimbomba un bel fra, come lo senti a Tino? Guarda, vedete, ora, abbassato. Adesso è abbassata troppo, aumenta per appena. Ora aspetta, ora, vuole tre. Lasciala così, ma spingi un bel forte come il radio. Sono in bomba a tutto, Natali, come lo senti a Tino? Tutto scusciminiato. Con le orecchie, dicelo, con le orecchie. No, sto provando un Lincoln con il Q5, ma sicuramente ho la batteria scarica del Q5. Cazzo, c'è batteria scarica, Issa. No, l'altro giorno ho sentito facendo delle prove con le antenne. Guarda, con l'antenna, quella autocostruita arrivava in Santiago 5, con quel baracchino lì. Poi quando a quel baracchino lì gli ha attaccato la manta va 9 più 20. Vedi tu? Poi lasciamo perdere. Carriamo un pelo bianco su questo argomento. Ha migliorato la radio, qua. Sì, va bene, ottima, un bel forte te l'ho detto. No, perché magari tu avevi il dubbio che fosse il baracchino, eri Duchendi e Fendi, no, lì il problema è l'antenna, non il baracchino, perché come hai attaccato la Mantova a quel baracchino, ha subito un segnale a 9 più 20, che è il tuo segnale, capito, come adesso sei un po' più basso perché stai usando il baracchino anche tu, però quando attacchi il capo il tuo segnale è quello, quindi è venuto la va va bene, veniamo Franco di Sosso. Frate, un mito di sì, un chi sul gatto. Va bene, va. Adesso lo faccio. Guarda un pochino. Sono qui per questo, Solo voi mi potete dare conferma se trovando meglio o peggio. Ma stai usando un altro baracchino, Fra? Cazzo, sei parato dei segnali? A poi sì. Voglio vedere. No, adesso no. Poco fa eri più basso di segnale. Ehi, stavo usando il presidente Lincoln, stavo usando. Ok, a me mi ricordo, visto? Invece tu lo puoi trattare. Va bene. Poi attacco la 48, usci in pari. Vai Tino, fai la prova con Franco. Forse voi siete troppo a vista ottica, Fra. È per quello che ti arriva molto forte, perché qua va bene. Ehi, infatti strappa anche di qualche forza. Guarda, Fra, sono abbassato, Sono abbassato di amplificazione, vedi un po'. Sono proprio all'intorno anch'io, capa, no, adesso va bene, adesso la modulazione va benissimo, anche se leggermente più bassa, però poco fa, come ha sollevato, ha cominciato a strappare e non riuscivo a capire. Capa, è per te, Fra, guarda un pochino, poi mi da conferma anche a Torino se è possibile. No, vabbè, va bene, ti ho detto, va bene, va bene. È che magari quando sei troppo vicino distorce o strappa, però qua va bene. Natali. Io lo sento bene. Allora lascio così. Va bene, mi guarda, grazie. Aspetta un attimino, dimmi se satura, perché una persona stava dicendo che stava saturando, guarda, ho un po' di batte, 1, 2, 3, prova, guarda così, si è aumentato anche il segnale, se no lo metto come, No, il segnale sale e non satura niente, ma ti ho capito, se fai la prova quando siete così vicini ti magari satura, è normale, no? Però qua va benissimo, sali quasi di 3 punti S, va bene. Va bene, Fra, ha cambiato qualche cosa da parte tua? Sì, è salito di segnale e anche del radio più piena. Va bene, lasciamo così allora. Va benissimo qua, va benissimo. Per me va bene, per me va bene, sto ascoltando con Saturnecco e sei perfetto, va bene. Molte volte mi viene voglia di darla a questa radio, molte invece dico ma chi me lo fa fare, perché a volte che mi piace, è una radio che poi spinge e fa, però bisogna trovare un po' la soluzione di vicini e lontani, più che altro, però dovrebbe andare bene. Ogni tanto bisogna perdere molto, Mi ama Franco mi brea quando ho tratto le baracchini, anch'io ce l'ho, c'ho questo Galaxy a Tornecco, c'ho il 48, c'ho l'altro e sono tutti col microfono a tavola, escono tutti bene, anche il 48 esce benissimo, però Franco non vuoi trattarli, hai detto c'ho troppo basso, vabbè, amo con foglio di giornale, c'ho tre piedi, avanti Natalì. No, io sono già nel vetro, che non Franco non vuole trattarlo, come trattare un tibiale in due. A te che ti faccio sentire, il presidente Nico ti faccio sentire, con la con il macro tutto della Forelta, come microfono, come scene diverse. Già l'ho sentito io, questa non è malvagia, no T, come modulazione col Galaxy MB più 5. Va bene, va bene, poi mi sono portato un po', adesso vedo un po', ho due o tre prove in un altro canale, ma non c'è nessuno, pensavo che andava bene. Vai Franco, vai, che ti voglio ascoltare. Guarda, Claudio te lo può dire benissimo, io non sono, allora io parlo di me, poi non si suol dire fra gusti e colori, non si discutono. Io non sono amante dell'eco, quindi preferirei una radio senza eco. Va bene. Vabbè, cosa vuoi farci? Io il governo mi ha passato questo e questo abbiamo, se no ho anche l'originale, ma esce bassissimo, quindi non preferisco avere un pochino più di amplificazione. Allora invece io adesso sto usando un altro baracchino e secondo te la modulazione come rispetto al Galaxy questa? Il microfono No, per me sei in cantina, per me era meglio altro. Pagatino abituato. Sì. Va bene, allora ricomutiamo all'altro. Vai Tatarì. Ma io ribadisco che i gusti propri non si discutono, quindi magari a me può andare bene, e ad altri no. Tatarì. Beh, già questo è più. È più prepotente, più scattante. Vabbè, quello lì è un baracchino piccolino, questo è Saturnecco, c'è anche più watt, capito? Però i microfoni sono uguali, non riesco a capire perché questo qua spinge di più rispetto all'altro. Boh, secondo me è proprio il baracchino, eh. Però sono tanto che delle radio, delle radio hanno un po' di difficoltà, come stava dicendo Franco, ad ascoltare questa radio qua, hai capito? Ascoltare la tua radio? Sì, per dire il 140, il 440 e i similari. Non è che non ti ascoltino, per carità, però ti dico, se c'è male, sei sacro, sei troppo amplificato, mentre invece con apparati del genere ci si comprende. Vabbè, io quando sento qualcuno male, sto parlando di 440, lasciamo perdere 140 e 680. Col 440 e col 430 quando sento male inserisco il filtro. Stringe un pochino e va molto meglio. Franco, se usa il 680 devi togliere l'NB fra per sentirlo bene. Se invece usi il 440 devi mettere il filtro più leggermente più stretto, capito? Che è quel che è giù dove c'è il commutatore dei filtri. Se ce li hai tutti i filtri, io ce li ho tutti, ce li ho tutti, il mio è completo, c'è anche la scheda fonica, così non si confonde con gli altri. Tutti ce li hai i filtri, AM, SSB, CW, ce li ha tutti, capito? Quindi se ti capita fai così, se no con 680 devi togliere l'NB per sentirlo bene, Ofra. Ma io lo ascolto bene con lo 680, lo ascolto benissimo a lui, e con l'altro che non riuscivo a tirarlo fuori, con l'Inco. Che strano, infatti è proprio vero, tra baracchini ti comprendimo, però non so, ma vabbè. Va bene che va bene, dai, mando le ciance. Avanti Nathalie, dove sei? Con chi sei? 6x6:36. Intanto Natalino che è giù da Auretto. Marco sta mangiando, riprenditi. Io sono anche mezzo influenzato, c'ho un po' di mal di gola, non riesco a sentire le parole. Va bene, mi sono subito 10 minuti, cioè, perché stavo a dare le cose al PC, un pochino se vado e mi faccio una bella doccia, che sto uscendo dal lavoro e ne ho approfittato a rilassarmi 5 minuti, vai anche lì già. Via, stai trabaccando, sì? Facendo qualcosa? Non sono al pieno regime, però sai, va bene, ogni tanto c'è una cosina, quindi si va avanti. K. Sapevi che sono andato in pensione, sì? Auguri, no, no, fratello, quindi sei nulla facente ora. Pensionato, sì, dal 1° ottobre di quest'anno, adesso praticamente dal 1° dicembre, adesso sono in ferie, poi dovrei rientrare 8 giorni, ma non ci rientro perché c'ho altri giorni da recuperare e basta, ho finito. E quindi da 1° gennaio 2018 siamo pensionati. Ho iniziato dal 76 a lavorare io. Conta che qua ci sono 30 anni. Riferrafa tra il cambio di Sino, scambio a Banoa e l'ingresso su Acciona, praticamente sono 30 anni. Tutti gli altri sono di anno in anno, 6 mesi, capito? E abbiamo fatto 42. Scusami, mi devo allontanare che mi faceva la valigia che devo fare una cosa in faccia, che manca il gas. Gappa, vai bra. Cazzo, dai, facciamo team, sentiamo, vai con loro. impegnato, boh, non lo so. Ah, quindi è più bella questa anche da te la modulazione, quella del Galaxy rispetto a quella del, del Midland? Sì, molto meglio. Ah, giusto, il tuo Galaxy è sempre in prima linea. Per me dei baracchini base è il migliore, è il migliore, molto completo, le puoi mettere qualsiasi tipo di microfono. Io c'ho anche il Tannen più 3, però no, non glielo attacco perché c'ha le connessioni di un'altra radio, il più 2 e il più 3 delle radio, praticamente quelle, quelle valvolari vecchie, capito? Quindi lascio stare. Però un MV più 5 si comporta abbastanza bene, eh? già viaggia. No, il mio carro più 3, quello lì, no, mi lascia il carro, io stavo modulando, non ha risposto più, pensavo che era la batteria, gli metto la batteria nuova e non fa più, non so come tagliavo roba, e l'ha già pugnata la roba. Ma il Tannen più 3, più 3, più 3, quello grigio c'è una resistenza sotto dove ce l'attacco la batteria. Quello grigio. Che c'è la resistenza, che siamo riusciti a fare la sicuramente sì, fra, sicuramente sì, a me me l'ha fatto una volta, quello grigio però, eh, quello nero invece no, quello nero c'ha l'attacco diretto dal circuito stampato, capito? Però anche lì sotto ci sono delle, delle resistenze piccoline, però quello ce l'ha proprio dove c'è l'attacco della, della, dell'innesto della batteria, controlla che non sia quello. Poi dalla Cantevi la Giambi, perché è un peccato. Certo, ma stava funzionando, quindi tutto è un questo che se fermo, non è uscito più, non è uscito. Ho fatto la batteria, io ho messo nuova, la pezza non esce più. Quindi tu la sei così, ti vedi? Fra, quando è così, devi... devi cercare di controllare bene, capito? E provare. Lo so. Vabbè. Ma è... quando ne ho voglia lo guardo bene. KK. Baracchini. Baracchini e microfoni vecchi. Bisogna sempre... sempre stare attenti. No, io ce l'ho, c'ho anche il più 2 da tavolo. Però... sulla linea di craft, quella, quella del cavetter che ha valvolare, capito? Sono tre pezzi, barrazzò, ed è lì. Mentre più 3, uno l'avevo venduto nero, e l'altro lo usavo col DAC, adesso il DAC non lo sto più usando perché c'ha le valvole mezze esaurite. E allora come baracchino base uso questo e poi l'altro, il K. Sì. Andare. Questi anche i K sono baracchini. Ho messo baracchini. Perché escono bene, escono molto bene, però diciamo che danno anche soddisfazione. I baracchini a sintonia continua, cioè, devo andare bene. Io ho un'esperienza, una vita che uso quelle radio lì, ho fra MT7. Oppure radio del genere, dai, a questi li vedi, un base bello come il Galaxy, il DAC, a me non mi dà baracchini di 10 minoreti a Polina, a Favità, perché no, non mi piace. Guarda, io ce l'ho l'anno 48, si intende roba di gole più miglia, infatti l'ho attaccato per usarlo così, tanto per farlo andare un pochino, a ora il sacco te lo può guardare dentro l'armadio, che intanto non si è venuto. Non si può usare, perché basta che entri qualcuno in qualche altro canale con le pareti, biglie. Invece questo è molto selettivo, è come che stia usando il K, capito? Il K, questi. Adesso lo apro a vedere quale ne usa il K. Prova a aprirlo, guarda, non so se si riesce a misurarla quella resistenza, non lo so. Prova comunque schiacciando la portante, fra. Schiacciando la portante se si muove il tester, misurando la resistenza. Se schiacciando la portante non si muove, è interrotta sicuramente lì dove c'è. Con la batteria attaccata però fallo, Sì, beh, è ovvio, se no con questo lo voglio avanti. Sì, prova. Prova, Sì, sta... come si dice, sta guardando il Tane più 13 che no, non esce di radio. Franco. Se manca l'uomo in casa, quel casino este. No, vabbè, anche perché tu sei dove vivo, in campagna sono differenti le cose della città, cambiare bombole, balle e banche, quindi attaccare i puzzi, girare la sale cinesche e così via. E così è. Ascoltati, ho messo il tono a uno, va meglio rispetto a prima. Fammi la differenza, io sto ascoltando, quindi. Allora, così è senza toni, ok, così il microfono senza tono. Mentre così è col tono. Noti differenza, ti piace di più così? Ehi, ti lascio andare. Questa moneta va già regolata a Massimiliano e io l'ho già ducata a Nintendo sicuramente, tu. Ci vuole il tono a uno, uno e mezzo, e va bene. Adesso si assomiglia molto all'altra, a quella grigia. No, ma va bene, sono io qua, per dire, questo microfono l'avevo attaccato prima al paracotto, tu va bene. Tutto questo, quindi ho fatto un passo di qualità, perché 48 usciva bene, però come hai detto con Canti, perdeva un sacco di flutter, quindi e più sentivo la tavola. Però quando ci avevo con 48 mi ricordo che avevo sempre il volume dell'amplificazione a 8 e il tono a 2. Questo invece è totalmente diverso. Vabbè, in base alla radio. Sì, ma anche io questa maleva regolata. Ecco qua, qua ci va anche il lock. Questa maleva regolata Massimiliano, però sicuramente io l'ho toccata, perché il tono mi ricordo me l'aveva fatto mettere a 1,5 così come adesso, capito? E quindi l'ho aver toccato io sicuramente. Adesso l'ho rimesso com'era, va bene. E beh, Franco, la resistenza da quello che fa è una cacciata. Dovrebbe essere in mezzo dove c'è la sede della batteria, controlla. No, perché non è attaccato dove è la batteria? Perché sono attaccati uno è attaccato, uno è attaccato alla... come si chiama? Ah, questa resistenza qua, questa lenticchia. Ah, se ti agito che è uguale a Romeo, sì, quella lenticchia piccolina. Quella tu devi misurarla schiacciando il PTT con la batteria e guardare se ti dà continuità al test. Se non ti dà continuità è interrotta, perché quella lì serve proprio per il passaggio di alimentazione del circuito di preamplificazione sulla batteria. Vai tranquillo. Ehi, già quel microfono già ne abbiamo avuto. Kappa, sì, ti la lascio stare così perché va bene, dai, riprendi. Va bene, dai, perché se me lo fanno, che io mi preparo la corna, perché non ho mai detto, devo far giocare a Gabriele, e quindi devo preparare la sacra, è durato, dietro, a me è freghista. Non avrei più fatti domani, è San Paolo. Mamma mia, campo difficile, ok, e io domani mattina alle 10 scendo a San Giovanni a prendermi il caffè e sigarette, e poi già sono in zona, se sì lì magari ci vediamo là. Non so perché è campo difficile, in che senso? I pezzi di sempre tutti. Ma noi tutte le volte che abbiamo giocato io l'ho vinto, poi vabbè. Bisogna vedere, diciamo che questa è dura, però guarda come va, siamo prima in classifica, quindi non c'è preferenza di questa perdita se pur si dovesse essere. Ma con la San Paolo gioca a tuo figlio? Io sono San Paolo quando lo giocare, però sono un anno più grande qui, capito? Quindi l'ho veduto per quello, non per altro, perché la squadra c'è. No, già lo so. Sì, ah, grande. No, è un campo un po' particolare, anche l'altra volta che è venuto il Monte Alma, a Pesaro Matese, pure Monte Alma in casa è molto forte. No, già li seguo a volte, se mi fermo a vedere le partite, perché ci sono un paio di amici, capito, che portano i figli a giocare, sto qua. KK, va bene. Ok, dai, allora ti grazie per le due chiacchiere, quando vuoi siamo qua, io quando ti sento nell'altro canale non entro, però già ti ascolto, dai, non ti preoccupare. Ok, ciao, alle prossime, se coincide ci vediamo domani, dai, Franco riprendi. Ciao Tino, vai, ce la aspettiamo tutte le cucinine, ce la aspettiamo. Niente, non sto chiudendo, non fa niente. Va bene, ciao. Ciao a tutti. Mi stavo regolando. Il watt Galaxy. Ecco qua, mettiamo a 10 watt. Che io lo tengo sempre a 10 watt. Ma è strano però fra, Molto, molto strano. Molto strano, non lo so, molto strano, perché io gliel'avevo sostituita, non ne vedi altre di quelle lenticchiette piccoline, no? Non è così piccolina, diciamo quanto centesimo, No, cazzo, non è quella, non è quella, è piccolina questa, è piccolina. Guarda se magari è spostata da qualche parte, io guarda quella però piccolina, che è saldata, se tu segui i fili, il rosso e il nero dove poi tu attacchi la batteria, nel circuito stampato dove sono saldati i fili che alimentano la batteria, no? Che arriva alla batteria, lì ci deve essere per forza qualche resistenza. No, negativo, quelli no, lì non ce n'è resistenza. Allora è diverso da mio. Allora è diverso fra, non lo so, comunque ci deve essere, da qualche parte ci deve essere, perché c'è una resistenza che appunto è collegata all'alimentazione, cioè per forza, capito? O di chi si longhi, o di chi si rotondi, ma aveva una resistenza. Sì, magari sono da una scheda, va bene, dai, non è un problema, lo darò a qualcuno che se ne intende. Ehi, ehi, vedi un po', però c'è per forza, ci deve essere, perlomeno nel mio c'era, in quello nero no, ma in quello grigio infatti da giudizio, Galero, grigio o niente, in quello nero no, è saldata direttamente sul circuito stampato l'alimentazione che va la batteria, invece in quello grigio c'era. Ecco, vabbè, quello nero non ho mai avuto due di questi, solo da, poi l'altro avevo l'altro. Sì, vabbè, non cambia niente, mi fra, sono uguali. Sì, alla fine dovrebbe essere uguale, però abbiamo aggiunto la cosa che fare, no? Non è filmato un cinema, e lì come ha costato 80 euro. Ehi, hai pagato poco, hai già pagato 100 io su internet. No, questo no, ma me l'avevano dato per 80 euro, però è un nuovo nuovo, è bellissimo. Tutto originale. Sì, anche il mio. Stiamo parlando di quello grigio però, Non il tame più tre. Il più tre, come ti chiama? Ghiscio Nieto, Ghiscio è imitazione tarocco, quello grigio, io sto parlando di quello grigio vale un sacco di soldi. Sì, quello grigio io, quello grigio più grigio. Quello nero non l'ho mai preso, è solo un colore, è un bel che vi sia, poi non ho visto una testa bella. Sì, però quello grigio è originale americano, capito, quello nero invece è di esportazione. Ah, così è. Ma non è anche quello, anche il nero è stampato all'americano. Nero è made in Japan, capito? È roba cinese e giapponese. Quello grigio è originale, se tu vuoi vedere sotto c'è scritto. L'originale, capito? Cioè, c'ho anche tranne più due, è uguale. Ed è originale americano, capito? Col connettore direttamente a spinotto, come le radio che si usavano un tempo. Infatti la radio che ho io è proprio su quel microfono lì e c'ha lo spinotto a jack di quelli grandi. Perché per la tavola è il 2? Sì, sì, il 2 sì. Non l'hai mai visto? Ma bellissimo, eh? Tutto in acciaio inossidabile, cromato, nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, con la linea di classe. Non l'hai mai visto? Te la porto la foto? No, non ho capito quali sono, già li ho visti su internet, li ho visti tutti, c'è quello che è tutto cromato, c'è quello cromato dovrebbe, ma quello cromato mi sembra che era lo Shure, mi sembra che era uno. No, il tuo è Turner più 2, leggi bene, Turner più 2, mi ti ho fatto la foto, adesso te la mando. È favoloso, fra. Mi te l'ho mandato, favoloso. Apre un po' garugio e qui. E un po' dall'altra parte, capito? Già si vede anche la linea di craft. È collegato a quella linea lì, capito? A quella linea lì è collegato. Ah sì. Ho capito qua. È diverso come modello da questo qua. È bello anche questo. Sì, questo è il modello leggi, però vedi al centro dove c'è la retina della capsula. Quello è un 2 serie 251 Turner e sono proprio quelli per le linee di vecchia data, le linee Drake, Alec Craft, le linee Sommerkamp, le linee Collins, insomma tutte quelle linee lì. Queste sono la radio, quelle VU, così? Quello è il ricevitore trasmettitore dell'Alicraft HF decametrico. Ah, pensavo che erano quelli VU, che sono in V2, erano due uguali, quelle VU, mi sembra. Quelle sono 275H, 475H, come quelle diceva Mannino, e quelle ce le ho. Sì. E quelle che prezzi c'hanno quelle lì? Allora, io me le avevo vendute tutte e due, ma ti parlo di anni e anni fa, perché non le usavo. Anzi, bugia mia, la pura verità è che me le ho vendute per comprarmi il GS2000, per comprare il GS2000, il quadro in bando. Ho detto così, ne ho uno, recupero spazio, e ho fatto la fesseria più grande del mondo, perché avere una radio quadribanda non è come avere radio singole come ti piace io, come c'hanno tutti i radioamatori, per carità, tutti. E quindi le avevo vendute. Per fartela breve, non riuscivo a ritrovarle, tramite volte le avevo iniziato a trovare il 275H, il 275H che è la versione da 100 watt V e la versione da 100 watt in U della ICO, base, no, già le conosci. E mi danno in vanta a pagare €550. La coppia, l'uno, ho pagato €550 che poi sono riuscito a 500, quindi facciamo 500 quella in V e 500 quella in U. No, non comparavo una cosa del genere, usa un VHF, l'uno di €100 e uno tratto VHF, ma... Va, informa di. Intanto vai a vedere su internet se ne trovi 275H e 475H. Sono molto rari, ma ok, non ci sia qualcuno proprio che li stia vendendo. Ma io ci ho messo un sacco di tempo, perché non lo trovavo. Valore suo è, non trova nessuno di meno. Prova di Lavannino. Vannino c'era un periodo li stava vendendo. Tutte e due, la coppia li stava vendendo 900 euro, 501 e 400 l'altro. capito? Non si possono vendere perché sono radio. Col finale da 100 watt, avere 100 watt in VHF è il massimo, ha le bande laterali, è una radio eccezionale, come ricevitore e trasmettitore non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, infatti molti, ma molti, molti radioamatori ce l'hanno e se la tengono, capito? Una bellissima radio. E il valore è quello, fra. Se riesci proprio a trovarla a uno che te la vuol dare, te la comprato, non te la dà meno di 400-450 euro. Cazzo. Cos'è IC o IAIL? IC come IC275H, H sta per potenza alta, perché c'è anche la versione 275E, capito, che la versione è da 50 watt, la versione H è da 100 watt, la mia ne da 120, 120 watt in V e 90 watt in U, capito? Sono i due gemellini della ICO base, 275H e 475H. Certo che adesso di quelle le trovi, tutti se ne disfanno, vedrai. E quali? Perché Natali? La chiama tra un poco, non ridratami più. Io vabbè, pazienza, non ha più piacere. Io già non me ne disfo, tranquillo. Quella mia c'ha i toni, c'ha tutto. L'avevo trovata proprio, ma serve che sei tu nella mia, perché era di Walter e quindi l'aveva venduta a quel poliziotto, ti ricordi, ti avevo parlato l'altro giorno. Se no le danno tutte senza toni, tutte senza toni le danno. Figura. Tutte, perché la scheda toni per quella radio intanto è rara, non la trovi. E poi se la trovi te la vado in bagaglio, capito? Infatti io con la scheda toni l'ho pagata, ne voleva 550 euro quel pazzo di coscia, vabbè, un radioamatore. E invece poi l'ha chiamato Walter e mi ha fatto dare 500, spedita, non mi ha fatto pagare manco il trasporto, 500 euro spedita, perché lui era lì a Napoli, capito? È giocavita. E beh, fra, convinto di sì. Sì, provata, però non ho proprio la cosa con questi, mi ha fatto entrare solo a vederla nella fermata dove c'è tutta la radio, però c'è sapessi. Perché non ce n'è, non ce n'è in vendita, ti sto dicendo, ho girato di tutto e di più io, mentre il 475H ho fatto cambio con un HF, figurati tu, ho fatto cambio con il 140 e in più ho aggiunto 100 euro. Te ne vai nulla, due che si divide, già te ne vai. Ti servono se fai attività amatoriale, non ce n'è per nessuno, te lo posso dire, guarda, al 100%, tu chiedi a qualsiasi radioamatore, di quelli anziani, di quelli che hanno esperienza sulle radio, il 275H, il 475H sono le migliori in assoluto. Tu immagini che hanno fatto il 910H, la ICO nuova radio, che praticamente ha sostituito i due gemellini, hanno fatto tutta unica, 910H ed è V e U. Una radio eccezionale, bellissima, ma ha creato tanti di quei problemi che non veniva a dirlo. È intermodula tanto e non ha le cose che ha praticamente, come si dice, la sensibilità che hanno sia una che l'altra. Guarda, quello è statisticamente approvato. Tanto è vero che il 910H non è andato molto. È una bellissima radio. Però i due gemellini rivadini 7-0. Quelle poco ma è sicuro, sono le migliori quelle. Non ve ne altro che la ICOM per quelle frequenze lì. Ma di lavatelo, Marco, c'è quelli che hanno esperienza di radio, avevo già detto. Non si toccano qui, non si toccano. Guarda, io fortunatamente tante volte, ti ripeto, ho riuscito a trovarla. Me la sono ripresa subito, immediatamente me la sono ripresa. Mentre l'altra ho fatto cambio con uno che praticamente non la usava, ma non è di qua, di Sassari, è della provincia di Coso, Olbia-Tempio, di quella zona lì. Capito? E l'ha giurato, lo 140, nuovo, più 100 euro. No, ma sai cosa è, Coso? Che è solo VHF, U. di così al tuo, non lo sempre di là. Cioè, alla faccia di uno di Biagi, di Bigliassino, di Aviso, ma io non mi posso venire fino, non mi posso prendere un VHF, non è che non mi posso un VHF, non mi si. Magari QHF, un base, era stato meglio. Ma tu immaginati, guarda, io c'ho 780 di Vannino, lo sai, no? Se vuoi ti faccio la foto e te la mando, se te lo ricordi. Con Vannino abbiamo fatto cambio con HF, la stessa cosa, capito? Il 780 è prima del 790 ed è V1, capito? 790 è più naturalmente meglio di questa perché c'ha il doppio display, eccetera. Ma io non la cambio il 780, io ce li ho tutti e due, io non lo cambio il 780 o il 790, assolutamente, ma nel modo più assoluto, capito? Nel modo più assoluto, perché ha una selettività quella radio allucinante, ed è a 220 tra l'altro, è a 220, capito? E fra, sono scelte che uno fa, non è che, cioè, quello è radioamatore, e come ho già detto una volta, non è che puoi provvedere con un 440 a fare attività amatoriale, puoi farla a livello di CPTO, capito? Ma quando parliamo di radioamatori professionisti che hanno grandi capacità di potersi spostare in tutto il mondo, hanno bisogno di radio molto selettive, che ascoltano i segnalini a Santiago 1 con tutti i filtri, con tutte le cose, stringi, allarghi, vedi, fai, cazzo, con un 440 ne vuoi andare, è un Caterpillar in ricezione, cioè intende più URM che lo geniale che arrivi Santiago 5, è lì il discorso. Così sono quelle radio, se tu le senti in banda laterale quelle radio divise, io ce le ho tutte e due attaccate su un'antenna o fra, perché l'attività che faccio è quella, c'è il duplexer e c'è l'antenna in U e l'antenna in V, basta la bibanda, e lavorano così, mentre sul 780 sull'altro, e lì c'è l'antenna diretta, capito? Un'altra antenna diretta, però l'attività amatoriale è quella, se vuoi trasmettere e ricevere bene devi avere radio di quella, è così, detto usa ne vai tu, è normale, a te andare un portatilino, un veicolare, fai curta e va bene, ma se fai attività, soprattutto in banda laterale, non hai radio di quella specifica lì, non riesci a farle bene, perché sono sensibilissime. Sì, quello è vero, con la gente diversa, cioè, hai ragione, uso un 440, un 80, un capitorrenne che è tutto l'altro, lui si muove tutti i filtri di Google, lui si mette una radio già nata come quella professionale che ci sono adesso. Ma capita a me a volte, no? Sono col 440, commuto l'antenna, per dire, perché ho tutte le antenne, le posso commutare da qualsiasi parte della radio perché ho il commutatore elettronico. No, te si mette ad ascoltare in 40 minuti, magari c'è un question che mi interessa, mi bongo a ascoltare, intende bongo i casini, tutti i gatti di goce, poi gli splatter che ci sono, di quelli che si mettono in mezzo, capito? Ha detto ma girami le balle, allora tanto, come accendo l'Icom, oh Gesù, oh un altro pianeta, intendi solo visto che fa vedendo, non intendi altro. E se no con le valvole, mamma mia, lo ricordi che a me piacevano gli apparecchi con le valvole per le HF, è tutto un altro pianeta, lo 440, lo vuoi pigliare l'ampazzio? Lo so Natalie, io ce l'ho ancora una valvolare, la linea di Kraft, ogni tanto l'accendo, è un pochino diventata sorda perché poi diventano così, capito? Poi alla fine non intende più nulla, vorrebbe revisionata, cambiate le valvole soprattutto del ricevitore, però anche i segnali bassi riesce a riceverli lì, riesce a riceverli bene, riesce a riceverli bene, però se mi va vedendo di radio, di apparecchiature, stiamo parlando di modesta fra, capito? E così sono quelle, così sono quei gemellini, ti giuro che chi ce l'ha se li tiene, ma se li tiene molto cari, infatti non ne vedi su internet, io ho cercato da tutte le parti, non ne ho mai trovato, avevo trovato la serie E, quella da 50 watt, che poi non li dà neanche, e non fa, capito, non fa, ma tu prova, ma che viene no, che la sento, e ti posso vedere, infatti che date in banda laterale che ando brucio la mia, sia una che l'altra, è allucinante quelle ragazze, sono allucinanti. Poi c'hanno tutte e due l'SM20, tutte e due, due SM20, due radio separate con due microfoni separati, io ti occupi un microfono e andrò avanti, capito? Perché se le devi avere, le devi avere in ordine e funzionanti, se no è inutile che girai, capito? E le due direttive soprattutto, una in VHF 9.20 e l'altra 12.20 in UHF per le bande laterali, invece per parlare normalmente c'è la verticale, capito? Proprio devi essere attrezzato lì, perché altrimenti non fai proprio un accidente. È ovvio, ancora è ovvio che uno sta a giocare gli amatori non si è attrezzato, perché se vuoi fare il radioamatore, prendi la patente, fare il radioamatore e poi esci in un momento in cui sbagli di va giù, allora non è più un radioamatore, fino ad allungo, sì. Con i pavigiani, con bambini 40 metri, con i pavigiani, però non devi allungo. Da voi ti fermi in giro. Non puoi, io ho anche troppa roba, eppure non dico che sono mai stato radioamatore, perché la parola radioamatore è una parola molto seria, capito? Radioamatore è chi veramente fa attività radio, chi appartiene all'IXC, chi fa cose come sappiamo chi le fa, senza fare nome, ma io ho sempre detto che in provincia di Sassari i radioamatori sono solo due per me, e continuo a dirlo, vita naturale durante, gli altri siamo solo amanti della radio e basta. Perché fare radioamatore devi conoscere le lingue, devi saper fare andare le radio, devi saper conoscere soprattutto tutti i movimenti della tua antenna, che non è facile conoscerli, tutti, non solo i punti cardinali, ma anche le zone in cui stai puntando l'antenna, e tutto, quindi saper lavorare in una certa maniera, e sono pochi che lo sanno fare. Io compreso, naturalmente, non mi discolpo di nulla, per carità, però è una parola grossa, non è avere le radio, ah, io sono quello che fatto, e beh, cosa si fa? Fammi vedere cosa si fa, andiamo, dove sei? Quanta metri? Io chiamo, guarda che c'è il Giappone, e non volevo puntare l'antenna, cazzo, giro di amatore, non sei di puntare l'antenna allo Giappone, capito? Cioè, sono cose molto importanti, molto delicate, che quando sei in mezzo, tu piscuano, come dico io, e due radioamatori bravi che hanno tanta esperienza, fai solo figo di meta. Ma tu non te la prendi la giri, non è per quando vedi che arriva a segnare l'altro la bruca. Non riesci fatti, no, lascia perdere. Io ce l'ho da poco le direttive, ce l'ho un paio di anni, però credimi che me l'hanno insegnato come si fa, perché me ne ero capace. E prima di conoscere i punti cardinali, faccio sempre a Gardina davanti, sempre, con tutte le zone, con tutte quelle della Iesimi, con tutti i puntini segnati di dove devo andare e come devo girare l'antenna, perché non è così, fra, non è, dove c'è il segnale più alto, non è cuscino, non è così, l'antenna può lavorare diretta a 280 gradi, ma può lavorare anche con la coda, quindi devi essere bravo tu a sapere dove devi lavorare, non è così, e credimi, solo due persone sanno fare radioamatore, per me, poi ognuno la può pensare come crede, per me solo due persone sanno fare radioamatore, con tutti i radioamatori che io conosco, e continuerò, ribadisco, a dirlo sempre, perché l'esperienza che hanno loro sono in pochi che ce l'hanno, e Natalino non sa di chi sto parlando. Va bene, ecco, io ti lascio che mi ha chiamato mia moglie e ci sentiamo. E le prossimine, dai, anche già sento che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Avanti, Natali, ce ne sentiamo, dai, alle prossimine, magari domani. Avanti. Pappa, ciao Fra, ben sentito, grazie delle due chiacchiere. Buon proseguo, buon tutto. Avanti qua. Ciao Pavla, grazie, dai, delle due chiacchiere abbiamo chiacchierato anche stasera, che va? Sì, l'otto manco un quarto, già vado a portare un gang. E poi ci prepareremo per la cena anche noi qua, vai. Ok, ciao Fra, Natalì, io mi allontano. Lascio tutto acceso che prendo l'oppo. Tanto Marco sta cenando, cioè sta pranzando, quindi speriamo che abbia finito e poi ci sentiamo, ok? Capa, ciao Clara, vai a fare il dovere, vai. Devo andare per forza a fare il dovere, sennò è un casino. Lo so. Kappa kappa, dai, adesso vado a portare a Ciccio Bello, ancora mi è cuccato in Kiwi, vicino sopra, vicino del Mosefone. Ma la giusta va a pisannire un casino, perché non vuole uscire quando c'è freddo, capito? Adesso le metto la sua mantellina, dai. Ci sentiamo dopo, a te se ci sei, ok? Ciao di nuovo a tutti, a dopo. Filippo, mica c'è Massimiliano, mi alzati! Dai, ci addrizzatemi. Ma se lo chiamo Massimiliano, conosce la voce, mi. Oh, io, mica sta venendo Massimiliano, mi alzati! Ma è bene, ma no. Adesso come mi alzo io da qua, mica inizio a vestirmi. Poi mi batto la con pigiama, allora vado in invece, si stiracchia e si prepara vicino alla porta a metterle il guinzaglio, capito? E da voi dici che non sono intelligenti gli animali? Lui se vede a me seduto qua non si muove da lì, perché c'è tanto, lui che non si invece non mi butta, capito? Come mi alzo io e accendo la luce e chiamo la letta a vestirmi, e dice invece si stiracchia bene e si ferma vicino a Ianna a esitare a pulire il guinzaglio. Va bene, dai, se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Passo e chiudo, a dopo. Ciao, Claccia. Beh, Marco, finito, finito, di strafogarti la pizza, eh? La pizza ti hai mangiato? No, pensavo, ti ho sentito col bip e allora pensavo che era Marco. No, sono io. Mi stavo spogliando, schiacciato, a vedere se c'era qualcuno. Ehi, sono io, a Giovanni Zivagna. Marcolino Condo, finito hai di mangiare? Cosa, Natali? Ah, c'è Marco, ora vivo. La giunta avesse finito di mangiare. Che sono i bari, si è cucato. Quando mangi ti viene l'abbacchio, come diceva qualcuno. Anche poco fa pensavo fosse lui, ho sentito un bippi, però era un altro canale. Aspetta che sto girando il sugo. Ehi. Oh yeah. Così este, c'è niente da fare, no? Ehi. Già va bene. Massimiliano non è più entrato. No. Ci avevo toccato i toni di questa radio, come aveva regolato Massimiliano. Adesso va meglio, no? Cappa. Non so, hanno tutte e due le stesse modifiche i microfoni, solo che quello che ho preso da Gigi Vulcano risulta più forte di questo, e c'è una capsula micidiale. Sì, vi davano in giambata la capsula. Sì, l'aveva cambiata Gigi. Risulta molto più forte di questo. Però c'ha l'attacco al contrario, mi tocca usare l'adattatore, capito, che mi ha fatto lui. Allora, quello lì lo uso sull'altro baracchino, lì lo lascio in Vissinoghi. Esatto. E gli va bene, dai. Per fare due chiacchiere ce ne avanza pure. Alla grande. A te l'immagini, quello lì si è addormentato, quel Marco che... Perché non lo sai quando mangia la piena abbacchio, ti ho detto, e sei un pipistrello. Allora. Vabbè, ordinato te l'hai il filtro, no? Ancora quello di Marco stai usando. Ehi, la batteria. Ma è andata sul tacco, non c'è. Ho sentito io qua, ti è partita in quarta. Chi sa di nevare all'improvviso ti va a svegliare un infarto. Sì, già l'ho sentita. A che riuscite a far sentire la lampadina della sveglia? Deve seguire la cosa, la batteria che non andava. Ma da un bel però. E a volte con le batterie toccano o non toccano, capito? E ti crea problemi. Oh signor. Oh signore Benedentro. Ma mangiamo, seguiamo un caffè, due chiacchiere. Io quando sono libero già scendo a San Giovanni, capito? Già scendo. Quando le domeniche era a riposo, adesso già mi posso muovere, non c'è ne problema. Beh, allora, se il Mimmi ha inteso la chiesa, lo rientrando. Ah, cosa? A chiesa di sopra. Ah, beh, è giusto così. Io ancora devo andare a cenare. Sta finendo di preparare mia moglie, aspettiamo ancora un pochino e poi andiamo. Marco, attento Marco. Oh, quella non ti risponde. E a che ora scendi qua, lì? Io prima porto il cane verso le 9:10, così 9:15, un mezz'oretta. Capito? Perché vuoi passare a prenderti? Ah, posso prenderti? Io passo due a pigliarmi e fare i miei impari, da. Così non ne capo la macchina, io, che, mamma mia. Se la posteggio sotto gli alberi, poi ma in una lì mi la passi in una nuova. Cappa, va bene, dai. Ma non sono sotto, ti chiamo. Tanto che non sia alle 10 di qui. Ma non sono lì alle 10:15, 10:20, già va bene. E vabbè, tanto Marco non ci viene che nel mondo dei sogni. Marco, Marco non ci viene, no? Se te l'hai già detto, l'ho chiamato a mezzodì e mezzo, ma è tutto di buon'ora. Cazzo, una scena. Oh, iaia. Vabbè, là. Allora, anda mai da un po' qui televisione. Chi ha già acceso televisione e tutto e non si capisce un tubo qua. Ehi, vai, tanto mi ha già chiamato mia moglie, Natalia. Lascio acceso, ancora un po', ma mi allontano da qua, dai. Ci sentiamo, ciao, ci vediamo domani mattina, va, già passi a prenderti, dai, quando sono sotto ti chiamo. Ciao. Ehi, ciao, ciao, a domani. Ciao, saluta il concetto. Ehi, altrettanto.